per questa nuova edizione di Fotografia Europea, ovviamente 2026, un titolo molto particolare, Fantasmi del Quotidiano. Si parte il 30 aprile, sarà fino al 14 giugno a Reggio Emilia, 21esima edizione. Siamo con Davide Zanichelli, che saluto e ringrazio. Buongiorno Davide. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Fantasmi del Quotidiano, un titolo anche un po' inquietante ma anche affascinante. Come si arriva a questa realtà che poi di ectoplasma è inconsistente, sì. Ecco, se vogliamo. Esatto. Allora, intanto il titolo è sempre frutto della riflessione comune tra i curatori del festival e gli organizzatori, quindi Fondazione Palazzo Magnani e il Comune di Reggio Emilia. Ogni anno si vuole riflettere su un tema attraverso i progetti fotografici che però abbia qualcosa da dire alla nostra quotidianità. E quest'anno la scelta è stata su fantasmi, che è una parola che non sempre evoca inquietudine, alcune volte sì, e ovviamente richiama tematiche anche indeterminate, paure magari non dichiarate, però altre volte sono ombre che ti accompagnano, sono anche fantasmi buoni per certi versi, no? Che accompagnano i cambiamenti. Gli oltre 20 progetti che sono rappresentati nel circuito ufficiale del festival, questo tema sarà affrontato da tanti punti di vista e ci saranno sicuramente, come dire, interpretazioni di diverse nature. Diciamo che oggi il tema del fantasma è qualcosa che è anche legato al potere, no? Perché è anche attraverso la paura e l'indeterminato che molte volte le strutture esercitano il potere sulle persone. E poi oltretutto l'etimo di fotografia, cioè scrivere la luce, fotografia, ha la luce lo spettro, quindi il fantasma inerente allo spettro, anche una sì. Concretezza in tutto ciò. I fantasmi come presenze, i fantasmi come inquietudine, i fantasmi come ritorno e oltretutto un'estetica affascinante e del quotidiano, vado a precisare nella composizione di queste parole che portano il titolo, insomma, quindi anche di denuncia, se vogliamo. Sì, ci sono, come spesso nei nostri progetti fotografici, sono al centro proprio fenomeni che riguardano la quotidianità e la contemporaneità. Si parla purtroppo appunto di guerre, di situazioni anche ambientali, ma anche di quei diciamo quell'esercizio di potere, come dicevo prima, no? Occulto, che rimane non immediatamente visibile, come appunto sono anche fantasmi. Per esempio, se pensiamo a tutto il tema della gig economy, cioè sì. Gli algoritmi, no? Che in maniera assolutamente imprevedibile e incontrollabile in realtà governano le economie e le vite anche di tante persone. Bello questo tema, cioè bello, è interessante approfondire tutto ciò perché nell'aspetto lavorativo i tempi sono cambiati, in effetti quando la controparte è qualcuno con cui puoi interagire seppur di parte avversa, in questo caso c'è il famoso algoritmo, no? Che diventa un po' ulteriormente minaccioso perché è imprendibile. A proposito di fantasmi, l'algoritmo è un fantasma del quotidiano, è un fantasma del quotidiano, sì. Sedi del festival. Le sedi del festival sono come sempre i chiostri di San Pietro, che è un po' il cuore di tutta la manifestazione, ma poi avremo Palazzo d'Amosto, che quest'anno abbiamo affidato totalmente ad Arianna Catania, una nuova curatrice che si è affiancata alla squadra composta da Alius Lebar, Tim Clark e Walter Guadagnini. Avremo anche due sedi nuove, che sono Palazzo Scaruffi, grazie a una collaborazione con la Camera di Commercio dell'Emilia, che è un palazzo restaurato recentemente, che i cittadini, insomma i visitatori avranno modo di riscoprire, che ospiterà una mostra dedicata ai 200 anni della fotografia, perché quest'anno ricorrono anche i 200 anni dal primo scatto di Nietzsche del 1826. Palazzo Scaruffi e poi anche la chiesa dei Santi Carlo e Agata in via San Carlo, grazie alla collaborazione con Flegno Flegge e la diocesi di Reggio Emilia, ospiterà una mostra di Elena Bellantoni, un'artista contemporanea, un'artista visiva, che attraverso le immagini e anche installazioni, proprio neon e scultura, interpreterà con un titolo particolare che è Ghostwriter, il ruolo proprio anche della donna all'interno di alcune dinamiche dei fantasmi della storia, all'interno proprio dei fantasmi della storia recente contemporanea. Pensa anche quante accezioni che ci sono a queste immagini, è vero, c'è anche la figura del ghostwriter, tra l'altro, e poi da qui si potrebbe andare oltre perché sono veramente tante. Ed è anche intergenerazionale, ricordiamo, l'approccio della manifestazione grazie al circuito off. Ci puoi dire qualcosa di più su questa rassegna nella rassegna? Il circuito off accompagna da sempre una delle cifre distintive proprio del nostro festival a Reggio Emilia, perché come diceva Jean Foncuberta, Reggio Emilia è una sorta di ossessione visiva, no? Quindi c'è un legame molto particolare con la fotografia e in effetti durante il festival anche quest'anno sono state oltre 300 le proposte che sono arrivate da totalmente auto-organizzate, spontanee dalla città e dal territorio, che hanno avuto, come dire, la possibilità di organizzarsi in negozi, esercizi commerciali, associazioni, anche case private, perché possano, come dire, aprire durante il mese e mezzo, insomma, no, di durata del festival e affiancare le mostre del cosiddetto circuito ufficiale. Però diciamo che l'off molte volte esprime anche una ricerca, una qualità che nulla ha da invidiare proprio anche al circuito curatoriale. Certo, immagino che questi aspetti diventano poi sorprendenti e siano dei valori importanti e allo stesso modo danno una possibilità aggiunta a questi aspetti. E per quanto riguarda collaborazioni ed eventi paralleli, se sono organizzati anche incontri, eventi relativi alla rassegna stessa e collaborazioni per il festival? Sì, intanto la collaborazione istituzionale, come dire, che da sempre un po' accompagna il festival, è quella con la collezione Maramotti, che anche quest'anno inaugurerà una bellissima mostra di fotografie durante i giorni della settimana inaugurale, ma avremo anche proprio nel weekend, in particolare tra il 30 e il 30 aprile e il 3 di maggio, una serie di spettacoli dal vivo. Avremo Fede Legrand che apre proprio le danze, diciamo così, anche in senso figurato e letterale del termine, giovedì sera in Piazza Prampolini, e poi una serie di incontri che hanno il compito proprio di lavorare sul tema dei fantasmi del quotidiano, non da un punto di vista visivo, non fotografico, ma da tanti altri punti di vista artistici. Così avremo Loredana Lipperini, avremo Luigi Zoia, avremo Simona Vinci, avremo tutta una serie di ospiti, Anna Maria Testa, che affronteranno appunto il tema da tanti punti di vista. Il sabato 2, questa è veramente una chicca, Nello Salza, che è stato, diciamo, la tromba di tante composizioni di colonne sonore di Ennio Morricone, insieme a Gianni Canova, in una sorta di talk spettacolo, approfondiranno il tema proprio del ruolo della musica nella tensione, no, che si respira in determinati film dei grandi maestri, diciamo così, del Novecento, in cui la musica e la tensione, l'horror o il thriller sono stati, insomma, elementi fondamentali per la buona riuscita del film. E sicuramente vi sarà capitato questo gioco di guardare le scene più terrificanti senza la musica, perdono, esatto, veramente tanto, perdono, esatto, tantissimo. Nella serata del 2, proprio di sabato 2 alla Cavallerizza, sarà possibile proprio vedere alcune scene con e senza il commento musicale per capire quanto la musica, la tromba in particolare, abbia un ruolo specifico in questo senso. Ricordo che fino al 14 giugno 2026, che è la 21esima edizione del Festival Fotografia Europea a Reggio Emilia, Fantasmi del Quotidiano, grazie a Davide Zanichelli per queste anticipazioni e per questa presentazione, staremo in contatto e quindi avremo modo di incontrarci. Grazie. Grazie a voi, vi aspettiamo a Reggio.